GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Dalle 7 di questa mattina aperti anche in regione i seggi per il referendum, poco meno di 1 milione gli elettori coinvolti, urne aperte fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Due persone, padre e figlia di nazionalità tedesca, sono state soccorse questa mattina dalla Guardia Costiera nella laguna di Marano dopo che la loro barca aveva iniziato a imbarcare acqua. Il sindaco di Sant'Arligo della Valle, Coretti, è stato derubato la notte scorsa dell'incasso della Sagra di Mattonaia, manifestazione che lo vede tra gli organizzatori, un ammontare di circa 10.000 euro. Da oggi entra in vigore anche il nuovo orario dei collegamenti extraurbani tra Udine, Grado e Lignano, che prevede per gli studenti delle scuole dell'ex provincia di Udine, in possesso di un abbonamento annuale, l'offerta speciale di viaggi a metà prezzo fino alla fine di giugno. Con l'inaugurazione della mostra Volti e Mani del Cinema, gli artigiani del Friuli Venezia Giulia, prosegue a Pordenone il programma della manifestazione Le Giornate della Luce, con un omaggio al cinema e un'attenzione speciale al lavoro dell'autore della fotografia che nel film ha un ruolo fondamentale. Le 12:16, ancora buona domenica da Daniele Lettige e Giorgio Bears in studio per questa seconda edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Si sono dunque aperte stamane alle 7 le urne per le operazioni di voto sui 5 quesiti dei referendum abrogativi, li ricordiamo, 4 sui temi del lavoro, 1 sulla cittadinanza. Ci si può recare i seggi delle sezioni dove si vota oggi fino alle 23 e domani lunedì dalle 7 alle 15. Al seggio, presentando un documento di identità e tessera elettorale, chi l'avesse persa può rivolgere al proprio comune per un duplicato, saranno consegnate 5 schede di colore diverso, ognuna con la descrizione della norma che potrebbe essere cancellata in tutto o in parte. Come in tutti i referendum abrogativi, l'esito di ciascun quesito sarà valido soltanto se i votanti supereranno il 50% più uno degli aventi diritto. In Friuli Venezia Giulia sono poco meno di 1 milione gli elettori, 932.600, con una maggioranza di donne, 480.000, rispetto agli uomini, che sono circa 30.000 in meno. A livello territoriale, in provincia di Udine risiedono quasi il 45% degli elettori. Sono 1.357 le sezioni che andranno scrutinate nel pomeriggio di lunedì, domani, e dalle prime rilevazioni ufficiali uscite alle 12, sulle 1.357 sezioni sono arrivati per ora i dati di 855 sezioni e l'affluenza al voto alle 12 è stata del 7,15%. Passiamo alla cronaca. Due persone, padre e figlia di nazionalità tedesca, sono state soccorse nella prima mattinata dalla Guardia Costiera nella laguna di Marano dopo che la loro barca aveva iniziato a imbarcare acqua. L'allarme è scattato alle 7.30. In pochi minuti un'unità ha raggiunto i due, che si trovavano a circa un miglia e mezzo marino di distanza dall'isola di Sant'Andrea, prestando loro assistenza. Una volta giunti sul posto, la motovedetta da Guardia Costiera di Grado, i due sono stati scortati sulla loro imbarcazione. Si tratta di un 12 metri a motore all'interno del canale di Porto Buso, dove padre e figlia, in buone condizioni di salute, sono state trasbordate e riportati a terra. Il sindaco di Sant'Arligo della Valle, Alessandro Coretti, è stato derubato ieri notte dell'incasso della Sagra di Mattonaia, manifestazione che lo vede tra gli organizzatori, per una montare di circa 10.000 euro. Coretti ha presentato poco dopo mezzanotte la denuncia ai carabinieri, che sono intervenuti sul posto. Il sindaco, ha riferito loro di aver notato due uomini che, dopo aver spaccato il vetro della sua auto dove era custodito l'incasso e aver preso i soldi, si stavano allontanando dalla zona a bordo di un'auto di colore scuro. Le indagini sono in corso anche con l'ausilio di alcuni filmati del sistema di videosorveglianza. Da oggi entra in vigore anche il nuovo orario dei collegamenti extraurbani tra Udine, Grado e Lignano, che prevede per gli studenti delle scuole della ex provincia di Udine in possesso di un abbonamento annuale l'offerta speciale di viaggi a metà prezzo fino alla fine di giugno. Il nuovo orario prevede poi collegamenti diretti e più frequenti con corse ogni ora da e per Lignano e Grado, oltre a connessioni ottimizzate con i principali nodi ferroviari e intermodali come Palmanova, Cervignano e Latisana. Il meteo incerto dei primi giorni di giugno non spaventa i pendolari della spiaggia e i collegamenti estivi Udine-Mare del trasporto pubblico extraurbano debuttano con una buona presenza di passeggeri. Nella prima domenica, con l'orario estivo potenziato, i mezzi in partenza dall'autostazione di Viale Europa Unita a Udine, diretti a Lignano e a Grado, hanno accolto turisti giornalieri di buon'ora ma anche a mattinata inoltrata. In direzione opposta non è mancato chi ha utilizzato il servizio per rientrare da Lignano dopo la lunga notte di Pentecoste. La corriera per il mare è una soluzione ideale per molti giovanissimi senza patente e senza auto, ma non mancano gli adulti. Tra i principali motivi che inducono a scegliere il trasporto pubblico, la soluzione al problema della sosta nelle località balneari. Il servizio proseguirà comunque per tutta l'estate con corse ogni ora per le due località balneari e con il costo del biglietto dimezzato fino alla fine di giugno per gli studenti in possesso dell'abbonamento annuale scolastico. Udine, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. E siamo alla situazione del meteo. Su pianure e costa il cielo è da sereno a variabile, in montagna cielo coperto. Queste le temperature registrate alle 11 a Trieste 25 gradi, a Gorizia e Udine 27, a Pordenone 25. A Forno di Sopra 21 gradi, a Tolmezzo 20, a Tarvisio e Piancavallo 16 gradi e 5 decimi, a Sappada 15 gradi. Sul Monte Lussari, sul Monte Zoncolan 11 gradi e passando la costa, a Lignano 26 gradi, a Grado 24 gradi e mezzo. Queste le previsioni. Dal pomeriggio nuvolosità in aumento con probabili rovesci e temporali sulla zona montana. In serata qualche temporale potrà interessare anche la pianura e con minor probabilità la costa. Sempre sulla costa soffierà vento da sud o sud-ovest moderato. Domani al mattino cielo nuvoloso in montagna sulla pianura e variabile sulla costa con bora sostenuta e moderata sulla pianura. Dal pomeriggio schiarite sempre più ampie, specie verso la costa dove sarà in prevalenza sereno. La bora calerà progressivamente d'intensità. Con l'inaugurazione della mostra Volti e mani del cinema, gli artigiani del Friuli Venezia Giulia, prosegue a Pordenone il programma della manifestazione Le giornate della luce, con un omaggio al cinema e un'attenzione speciale al lavoro del cinematographer, l'autore della fotografia che nel film ha un ruolo sempre più fondamentale. Ieri sera avvio della 11ª edizione delle giornate della luce di Spilimbergo con il regista Maurizio Nichetti e il suo Amiche Mai. Questa mattina sempre qui in centro a Spilimbergo l'inaugurazione di due mostre con Donato Guerra, direttore del festival. Che cosa aspettarci per questa settimana densa di appuntamenti fino a domenica? Come dicevi, oggi cominciamo a inaugurare due mostre, una dedicata a Partenope, diario fotografico di Gianni Fiorito, e l'altra dedicata ai film degli anni 70, sempre film italiani. La settimana è intensa, piena di eventi, masterclass, incontri, avremo Milani, avremo Milena Vukotic, Barbara Bobulova. Mercoledì aspettiamo studenti che arrivano da tutta Europa, perché arrivano dalla Spagna, dalla Slovenia, dalla Croazia, dall'Austria e dalla Polonia. Tanti incontri, tante emozioni. Spilimbergo, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Nel 2026 il Panathlon Club Trieste, che fa parte del movimento internazionale sorto per difendere i valori dello sport come strumento di formazione e valorizzazione della persona, festeggerà i 70 anni di vita sociale con una serie di iniziative che partono già quest'anno. Fra queste, da ricordare quella che martedì sera vedrà ospite del sodalizio locale e relatore il consigliere federale Rossano Galtarossa, vincitore di ben 4 medaglie olimpiche nel canottaggio, tra cui anche l'oro conquistato a Sydney. Ce ne parla il presidente del Panathlon di Trieste, Biagio Terrano. Il compito del Panathlon Club Trieste è quello di difendere i valori dello sport al più alto livello, trasmettendo ai giovani l'etica del fair play, e cioè il rispetto delle regole, il rispetto dell'avversario, riconoscendo i propri limiti e onorando sempre il nostro motto che è ludis iungit, e cioè uniti dallo sport. Nell'incontro che sarà organizzato martedì del Panathlon si parlerà proprio di canottaggio con un relatore d'eccezione. Ecco, l'evento è l'incontro con Rossano Galtarossa, che ci relazionerà sulle ambizioni del canottaggio azzurro in vista delle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Ecco Presidente, ricordiamo che nel 2026 il Panathlon Club Trieste festeggerà un importante anniversario, ce lo dice lei? Ecco, l'anniversario è i 70 anni di vita sociale. Nel 2025 abbiamo svolto due importanti service. Il primo, sport e scuola, dove sono stati premiati studenti delle scuole locali che hanno saputo coniugare rendimento scolastico con una media dell'8 e successi sportivi ad alto livello agonistico. E il secondo service, altrettanto importante, è Sportin, una manifestazione giunta alla terza edizione, organizzata insieme al Lions Club Trieste Host, che è un evento che attraverso una tavola rotonda e l'esibizione di vari sport alla Sport di Aquilinia abbiamo dato dimostrazione pratica di come lo sport sia strumento di inserimento, di integrazione e infine di inclusione, nel senso che riconosce la disabilità non come un ostacolo ma come una risorsa, equiparando alla fine il disabile al normodotato. Siamo agli spettacoli, data zero questa sera per il tour del cantautore Cesare Cremonini, che aprirà con la sua esibizione il calendario musicale estivo di Lignano Sabbiadoro. Prima canzone in scaletta, il nuovo singolo Ora che non ho più te, appuntamento allo Stadio Tegil alle 21. Primo appuntamento per i laboratori di pittura, disegno e collage per adulti e bambini guidati dagli artisti partecipanti alla mostra Open Confini di Luce per un mondo di pace a Trieste al magazzino 26 del Porto Vecchio fino alle 21. Da oggi l'installazione Depuratore 2 del duo artistico Enzo e Barbara, inclusa nel cartellone di attività artistiche ideate per valorizzare il ruolo della cultura e dell'arte per lo sviluppo della città di Gorizia, sarà visitabile nello spazio di arte contemporanea The Circle in via Rastello. Per la musica, il festival di musica indipendente OFAC oggi sarà aperto dall'esibizione del gruppo dei Boomerang Overs a Trieste all'ippodromo di Montebello in piazzale De Gasperi alle 16:30. La rassegna Palchi nei Parchi propone il concerto del gruppo Italian Bazar a Codroipo al palco delle Risorgive alle 18:30. Suoni ed echi della Grande Guerra, inediti musicali di Cesare Nordio alle radici della Nuova Europa e il concerto che si terrà a Trieste al Civico Museo del Risorgimento a partire dalle 17. E alle 12:26 minuti si chiude qui questa seconda edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia, che è stata redatta e condotta da Daniele Lettige e Giorgio Bearz con la collaborazione tecnica di Carlo Morello e Federico Comar. Ha collaborato in redazione Valentina Veneruso. Prossimo appuntamento con il giornale radio alle 18:30. A tutti un buon proseguimento di domenica. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.